Okej, zeklo, preklo, premik. Pesovni sjeća sofokare, gome klastrofobiko, paranoiko. Come sorta effetto transipnotico, cosa cronico. Senza più speranza nel buio della stanza, vittima di questa circostanza. Cosa mi prende? Non lo capisco, non sono più lo stesso. Disperso in un concetto senza senso, ricerco me stesso. Ma mi provo dalla matta quanto nello specchio. La realtà distorta, contorta, composta da frammenti di identità. È la mia chimica, reazione critica. Realtà non mitica, realtà sintetica. Raccono nel buio nei miei del subconscio. Cerco una risposta a una domanda che non conosco. Tutto scomposto come un quadro di Picasso. Devo stare attento, non fare passo falso. È come un campo minato, è un codice cifrato. Senza risultato, vengo bombardato. Attaccato dal mio stesso sistema immunitario. Mi sento come un gladiatore al radio. Follia, capisce di forza e poi psichiatria. Non ci sto più dentro. Sono provato da una serie di stronzate. Non ci sto più dentro. Sono sconvolto, residui disperati. Non ci sto più dentro. Sono nel pieno di una crisi esistenziale. Non ci state più dentro. E ora uomo che vi ripigliate. Non